Yo, ci siete per il generale e ditemi se ci siete per il generale originale dello stile fiorentino. Lungo strade in salita son distratto da un pressante via vai, ma resisto come un samurai e resto in piedi, ma tu levati, dai sollevati, dai sollevati, levati. Lungo strade in salita son distratto da un pressante via vai. Quanto ritardo nella nostra agenda, quanti dubbi e quante paranoie. Dammi un colpo in testa prima che mi riprenda. Dico non porti bene fare i nomi dentro una canzone. Allora dico l'età di chi governa sta nazione. 87, 77, 55, 60. Ecco chi governa la storia futura. Sta roba mi spaventa. Ancora cerco un posto nella città del mostro. Ho smascherato finti gangster. Ho lavorato gratis, ho leccato culi. Qualcuno pensa è meglio che ti muori. 10 anni all'università, la massoneria governa la facoltà. Città vetrina, mi abbassa l'autostima e mostro qua AND col generale in missione e sempre manca money. Sotto pressione e dopo 15 anni un altro bivio. Si vive nel fastidio, in mezzo a sfighe, scazzi e problematiche di ogni tipo. Ogni mattino c'ho un dissidio, in mezzo a queste mura. Ostruzionismo attivo che mi blocca le mani e mi cattura. La vita è dura per ognuno e per ognuna. La selva oscura tra le ombre della paura. Un'esistenza insicura, corrotta dall'usura. Questo equilibrio instabile ancora dura. Lungo strada in salita, son distratto da un pressante via vai, ma resisto come un samurai e resto in piedi, ma tu levati, levati. Lungo strada in salita, sto distratto da un pressante via vai. Ci sono abituate a uscire fuori con le mani alzate. Scusate se insisto ancora con ste storie, ma mi hanno appena detto che l'inferno non mi vuole. Il paradiso è pieno, è duro stare fuori strada. Se il cielo pioverà neppure se è sereno. E vengo preso in pieno, mi sento soffocato e cerco spazio. Proiettato verso l'extrema ratio, arrancando nei boschi del disagio. Ultimo stadio, ma il mio messaggio ancora naviga su internet e sulle onde radio. Levati di lì, non fare ostacolo, basta. Mi stai addosso che sei uno scandalo. Quando ti cavi dalle palle griderò al miracolo. Si farà festa con le bombe a grappolo e poi il silenzio finalmente coprirà il tuo rantolo. Nell'angolo mille sconfitte al mese, il fiele sembra dolce come miele, perché io non ho mai gustato la vittoria finché non m'hanno steso al tappeto senza gloria. Così come ho visto la luce del mattino molto meglio dopo che sono stato per 3 notti sveglio, e mi sento più vivo dopo che sono pesto, morto in arresto. È per questo che pure se di notte piove usciamo uguale. Menti criminali sulla strada col generale. E non vedo l'uscita, passo da un casino all'altro frequentando la vita. Perché no, non credo nelle corti dei miracoli. E so che quando poi mi scontro con gli ostacoli fo del mio meglio per restare in piedi. Vedi, credi, eh sì, dai, credi quel che vuoi, ma tu levati di lì, dai su, levati di lì, dai su, levati, levati, levati di lì, dai su, levati di lì, dai su, levati, levati. Lungo strada in salita, son distratto da un pressante via vai, ma resisto come un samurai e resto in piedi, ma tu levati, levati, levati, levati, levati, levati.